Attenzione Marino. Cosa vuoi da Marino? Ah, mia Graziano mi. E di sì, oltre a Tombasi. No, mi sto pulendo il finocchietti che mi ha fatto in campagna, era in campagna. Così è. Che sta dentendo lontano, dentendo? Perché ho risposto da col braccio, da un metro, da. Ma così è. E andi beh, andi. Bebe. Non è entrato nessuno in radio. Saranno tutti in giro, saranno. No, ma Marino ha inteso nella 27, però deve darsi che la fa vedere con uno di fura. Io ho fatto un po' di finocchietto, li sto pulendo. Poi me li metto nel pozzetto. Quando mi servono, così ce li ho a cucinare pasta e fagioli, capito? L'ho trito un paio di pezzi, così si pulisce. Il minestrone. Sì, andemmo per andemmo, catta. Così ci ha di salvati, cono. Sì, ho capito qual è. Ce ne dovrei avere mezza busta io. E fino a che sei in campagna. Sì, l'ultima volta che li ho fatti, cioè li ho messi in frigge. E pare il vennaggio un po' garito, vennaggio. Anche io ne ho un po', ma stavo tagliando l'erba oggi, nel vigliura, e prima di tagliarla ne ho fatto un po', capito? Già cresce giusto, però... Sì, vabbè, un po' garido gli andava. Lo metto in un contenitore di quelli di gelato, no? Quando mi serve lo apro dal pozzetto, ne prendo un 4 o 5, li trito e li metto in mezzo. Al condimento, quando si faccia il soffriggendo. Sì, anda. È Gian Maria. Ma l'ho sentito, e l'ho acceso adesso, non me l'ho portato in campagna. Se mi la rego, da voi non fai nulla, rego frigge. E infatti, io non me la rego manco io appresso, baghissu. A chi chiede che la rego lugane, non me la rego io. Se no ti distrai, non fai nulla, capito? In campagna c'è la doppia, tanto, non ho smontato tutto. Va bene, vi vediamo un po' che noi da chiedo sempre venni, quando vi la via. Andiamo, bubù. Adesso mi finisco questi, che se no non finisco. Sì, fai, grazie, già sono di noghi. Io. Battisio! E lui! Oh, signor Battisio! Torre, a chi sei? Ehi, no, che gioco! Meglio lavati, messi a posto, un pozzetto, nel contenitore, tutto a posto, ma ne esci di un contenitore pieno. Sì, da te! Quando mi sei fini, ce ne avevo un po' ancora, però ho cambiato il contenitore più grande, perché avasso di più. E se mi fate in bomba di un poco. Oh, e andava così. Ma non sentite nessun altro. Luca non c'è, Marina che è partita al continente e dovrebbe tornare martedì, dunque qua non c'è. Luca Flippa sarà in casa sua, sarà su, sarà. Gian Maria sarà invitato dalle figlie. Marino non sente, Ma Marino ha inteso sulla 27, era va bene con uno di fura, dei continenti. Non so che di gallo guida. Dove c'è in banda laterale, dove c'è. Sicuramente adesso che sarà messo a posto staranno girando con gente di fuori. Sì, andava così. E lo sapevo, ma era rimanere in campagna, oggi in campagna, adesso quando riscendo sabato e domenica gli dà un'altra rasata ed è a punto. Ma non è che lo rasi duro, un raso di latte però. Tu hai mai Gesù, compreso l'hai. Tanto. Sì, buonasera Gian Maria. Caspita. E da mai da solo, compreso l'hai. E dove gli ho fatto fare l'altro? Compreso l'hai. E di lì dentro, un vicino, ah. Per mettere sotto un'altra lieva. Questa è di tutti i figli, è fresca fresca. E poi hai visto, ha fatto un fuoco, l'altro però, ha cucinato e vede la baita di zia, che gli dai la cucinetta, ho preso là. Certo, poi l'ho preso io, e tu sei per baita di. No, io ho posto la daura con un bambino, già acceso la daura. Una volta che era avviata la daura, ha chiamato la mamma e l'ha detto buono di un carbone, così si tutto lo sacco, tutto lo sacco entro io. E le graviglie l'ha bocinato, l'ha detto dopo di mezz'oretta, vai a pulire le graviglie che è quasi falato, lo carbone. E le ho bussato e guardavo i movimenti, se era tutto in regola. Capito, il movimento guardava lui. Boh, altri componenti to. Sì, Graziano è. Pazzetta, Bicecchi, Capocollo, Milizzani, Bevarone, Saschizzoni. Già finirà poco di mangiare, faccio una pasta che ha un tamburo. Poi va a finire va via i pasticcini, burro, col caffè. Per carità, io me l'avevo fatto la maconda, eh. A bailare, ci ha posato, a bailare il latte, non sa fa niente, capito? Il latte travagliente. Tanto compresi io. Ma andare a me con Firulico, ha fatto i ricavati su viso, ci ha posato, ha fatto travagliare a te, no? A bailare. A Baida e l'altro operaio l'ha giusto a tagliare un poco di vino aceto, me ne ha fatto una buccia. E va piano piano i nocchi mi l'ha giù pulito, l'ha giù lavato tutte le cose, l'ha giù lavato, poi un contenitore e poi un bozzetto. Così mi l'ha giù un bel poco. Vai, vai, vai, ti compreso. Solo a mangiare e basta. E ne manco tutto. Ah, ti ho preso la baita di tutti i movimenti la baita i movimenti. No. Graziano, Graziano, cosa li vuoi fare? Non prendete di fotocopi. Ah, ma quando ti ho rapparato devo farti vedere un filmino, devo abbaidare tutta la campagna bella burita, a tipo prato inglese, alla Sagheda. Alla Sagheda però, a sabato e domenica. Sì, per caso mi vede bene fare un burro dentro di Gheda. Comunque in due giorni tutta l'erbalta, tutta tagliata. Ed era inesperta, hai visto, sono passati due giorni, oggi mi sono accorto che l'operaio si sta avviando bene, ci sta prendendo la mano e la confidenza, sta funzionando meglio, è più veloce. Ho preso, Aggia, non so tutti se vuole mi vicino, dai, dai. Certo. Già da me, fai così sempre, controlla sempre i movimenti. Ah, ma devo fare l'altra assunzione, oggi l'ho fatto vedere come ti funziona il travaglio. Chi c'è di ribaeggia, chi ribaeggia travagliare di vidri già sarici. L'ho già procurato un cappellino, le lasse con pagliacci di peli e la giusta e i guanti. Vai, vai. E beh, tu cosa hai combinato oggi? Non credo tu l'hai mai detto di no, solo. Penso a che cosa l'hai fatta, tu non fai come te fa ringraziarlo. Oh, era in casa mia. Allora, mezz'ora ha già regato Rugani, poi, sai, hai visto, ha già dovuto appostare, quindi la mia passeggiata è quella oggi. Sì, vabbè, sì, tu hai avuto la campagna, come ti fai graziare, magari c'è tu arruccetti come te ne arruccetti la 50 oggi, o no? Un po' dici? Più oggi alla salperaia che ha su solo femmini l'hanno fatto vedere come ci si pisuleggiano gli alberi della riva, le rametti secchi con la forbice e l'usighetto. Alla prossima settimana le fa anche quel lavoro davvero. E allora l'hanno fatto vedere come ti devi fare, no? No, andiamo in torri. Ah, boh, non me ne intendo io, no. Non me ne intendo io. Se è stato io pure fare qualche cosa, te l'avevi detto, ma si mette, non fosse nulla. Stavo a restrarmi queste cose, degli otto. Io non abito in campagna. E hai bisogno all'arbore, li rametti secchi che bisogno, si tagliano con la forbica. E con un serracchino si becca il ramo appena più grosso. Chi su travaglio è semplicissimo, vedi, no, dov'è? Vedi che è secco, già si vede, li tagli. Sempre dopo l'occhio del ramo, noi ne tagli un breco, un secco li devi tagliare. Bravo, bravo, bravo, bravo. E ho visto che ha preso già bene, perché gli ho fatto fare anche le prove. E già andava, dunque già assunta. Continua così, continua, farai carriera, grazie. E allora, la giunta la prossima settimana ancora. Ti armi di carriola e di pala, che ci deve portare questo rottame tutto dietro. Bravo, bravo. Avanti tu, ohia, per carità. E beh, e cosa, marino, non si è sentito? Oh, io l'ho inteso, la gente giù sulla 27 in banda laterale, ero già a mendi, ma non ha riposo. Beh. Certamente era appassionato per le 10, davvero, era appassionato per le 10, era. E non ti poteva rispondere. Chi c'era attaccata alla graviglia, arruscendo i vettini di cavallo, mi manni dietro. A tu che di è che sei? Ma chi c'è senza altri? In mezzo al bisello ancora. Non penso, penso che sia rientrato. E nei curi secchi e la buvica, bisogno, gli atti, bura, va. Luca del Monte, e il Turri, Archimede, il bello della Teroce, e il mare, Felice Rubagno. E il mare? Dico, dove sei il mare, Felice Rubagno? Non penso, no, non penso proprio. Con l'acqua scusa, rapica è andato. E Luca invece manicomio in Chanté, a chi non vede, la moglie. E ha bisogno di piccare i banani in mare. Chiamarsi crescere i banani in mare, lei bisogna piccare i banani in mare. Ora mica è ben organizzato, va la mutua, va a me, è ammutuato. Tata, bubù. Ah, Giovanni, io te ce l'hai a Graziano. Che cosa ha detto? Siete che farà mutua. Ah, Graziano, ma insomma. E allora, mica entra in costumino, è da mutuato, Non hai mai visto in mutua. Ma io non l'ho mai visto, l'hai visto tu? Pare figlia a forma di pesce di rana, burro. Davvero? E allora chi dice che i facci di Benalà andano a brinchi sotto a leva? Come se un rolto. Davvero? Davvero? Intesi vai? Sì, davvero, ehi. Certo che andiamo per andiamo, bubù. Graziano, hai così, no? Adesso che niente, male lo vedi con lo cronco, è nata la graviglia. Se poi se gli ti manda il voto, ti manda. Se sei arrusente. No, che già mi ha mandato un sciamane, un email, che io ci mangiava pasta al forno. Niente, hai su, bubù. E invece che hanno braccio no, non posso sapere niente a nessuno, a chi non ha futti, a nessuno non ha futti. Vero Gian Maria? Eia, eia, to! L'ha mandato un paio di gravigliati, l'ha mandato, sciamani! E a servizio, pacetta, capocollo, marini, i casetti. Certo, ne ha finita, ya! Pane con l'occhio d'arriva, era isso! E sta giù vicino a mai dente due rita con sirenti. Non so chi io, E tanto mi ha fatto rusare. Ehi, niente. E invece si è ruccito in un forno oggi. Ehi, aspetta. Ehi, Giulia. A me di la cosa che cucino e cosa non ne posso manco sapere io. Catta, non devi ne sapere la cosa che cucino io. Ha mandato dottore un video a me nipoti che sono tutti e due a Londra. Tu e a te mi maricuccio. Ah, so quel ridente, to. Sì, catta, vetturai. Ma che mi rimandi di chissà cosa, catta che devi danno un po' di chissà cosa, che non acciappani. Mi sa che chiedi, le vedi in sogno. Già lo so, no, infatti, non vedi l'ora che arrivini a luglio, ma decidi in fede. La di nove e la di dieci, una la di nove e l'altra la di dieci. 10 giorni di fede c'hanno per uno. Va bene, va, si devo lasciare, signori, che c'è gente, vai. Tanti per bene, grazie alla piccola chiacchierata, anche se breve, mi fa sempre piacere. Salutate il QRA e ci sentiamo. Ciao, Graziano, ciao Tore, Tore, riprendi, vai. Ci va domani, se coincide, ciao. Lei cos'ho? Sì, un attimo. Ciao Gian Maria, ci sentiamo alle prossime, magari domani, ok, ciao. Avanti il brecco. Buonasera, ciao Gian Maria, ben sentito, a domani se coincide, sotto in casa. Buonasera Graziano, avanti. Ehi, ciao Gian Maria, a domani. Graziano. Ciao Marino, e beh, tutto a posto. Ore. Non lo sente Graziano? No, non lo sento. Graziano. Ehi, non mi senti? Adesso sì, ma poc'anzi che trovo sul micro non ti sentivo. Avanti, Graziano. Senti, eppure era schiacciato bene. Ho detto, tutto a posto. Tutto ok, Graziano. Ho visto che tu stavi allo stand stamattina. Hai fatto lo schiavista anche oggi. Boh, mentre le donne a lavorare, io non lo so. E tu guardi, boh, boh. Non ti riconosco più, Graziano. Avanti, to. Sì, anda beh, signor Marino. Stasera Dario Giamenni sulla 27 era in banda laterale. Così è. Certo, non da va. Ho sentito, ho visto una portante lunga, ho visto, ma siccome era un casotto, tutti quanti sotto modulato, ho finito un po' cazzo, ho finito. Era mai l'Oriente Continente, Ragusa, Sicilia, la Trabassi, ma boh, c'era uno dell'Imperia lo stesso, troppo casotto, non c'è più troppo casotto, non capisci nulla, avanti. Sì, andava e andava. E si dove si? affanni? In Italia ho fatto, solo Italia, ho fatto la Sicilia, Ragusa e Giottondo. C'erano in queste ore, abbiamo fatto entrare, che se controllo poi l'ho lasciato a fare il QSO, tutto qua. Mi interessava se mi sentivo tutto qua. Avanti Graziano! Ehi! No, in campagna oggi stavamo ripassando il pezzo dove non era fatto. Adesso c'è da ripassare tutto per farla a raso proprio. Ho tratto di chiedere dopo sabato e domenica. Così fa anche prima perché quell'altra alta è tutta tagliata. Però vuole ripassato per rasarla bene, capito? E ok, piano piano, grazie, un pezzo oggi, un pezzo domani, già si pulisce, dai. Piano piano, anch'io faccio piano piano, un po' faccio io, un po' passa al mio genero. Una parte e passo la erba e passo, e poi le borse e passo il respiratore, tutto qua. Bene, bella. Tore, con questo antennino, è un auto costruito messo sul tetto, così appoggiato. Bene, mi stai ricevendo, come segnale? Sì, forte, fondo scala, è la radio buona. La radio buona, va bene, dai, va benissimo. Questo è il tubo che mi aveva fatto Luca, ne aveva fatto una a me e una a Bacchisia. Bacchisia è andato male. Questo, quando l'ho sistemato, dopo l'ho messo, va benissimo, meglio che hai. Ok, avanti, grazie. Ma in questa posizione così ti sento bene, però se metto la radio dritta sul tavolo ti porti appresso del QRM, invece così coricato di fianco la radio in questa posizione arrivi a bomboletta, perfetto. Solo se mi sposto ti trascini il QRM, se la metto dritta lo stesso. Magari quando ho l'altra radio accesa con l'antenna esterna non lo fa, ma col portatile mi fa così, così ti sento bene. E adesso ti stavo ascoltando, sinceramente, grazie. La modulazione si capiva in mezzo al QRM, o ti sei spostato? Ok, aspetta, ripeto che attacco l'additiva, vediamo se migliora un pochino. Ah, è guffetta. Ehi, Caruccia. Buonasera. E lo vedi, rientratoci, quasi. Sono qua, sono venuto qua, torno qua stanotte. Ma io rientro martedì. Già lo so, mi ho guardato il video quando stavi scendendo a Ulpia. Ti ho anche mandato qualche cosa scritta. Non l'hai visto? Sì, non ci ho fatto caso. Già lo so che rientri martedì. Ma se fuggi giù subito da Ulpia, ti lascia arrigata e te ne sei andato. Luca! Ciao Luca, ben sentito. E con questa come mi senti? Oh, grazie. Io pensavo che ti andavi in giro lì a Stamarcato, al centro di Ulpia, lì al porto. C'ho appuntamento con il barbiere, grazie, ha capito. Perché lì al porto, sotto il ponte, però non proprio al porto, sotto il ponte, lì fanno le piazzette, fanno, capito? E ce ne sono sempre, di tutto trovi. Lo so, ma ho appuntamento col barbiere, io non do la parola, è quella. Sono arrivato, sono partito da lì, che erano le 9, qualcosa, sono andato alle 10:30 circa. Ehi, vabbè, già andavo. No, guarda, già è bello, già. Lo conosci come tribù sciaccare mie. Ci andavo spesso a fare consegne. E ci mangiavo, ci ho anche dormito a Udda parecchie volte. Intanto ci vuoi scendere martedì. Avanti, chi è che c'è? Tore, avanti. Sì, ciao Luca, una passeggiata del vato su Manzano. No, sabato. Ieri, vabbè, dai. Ti ho fatto una passeggiata, non avevo segnato gli AVV. Che carriera aveva, ma che dai. Sì, perché stanno facendo la strada nuova, è tutta mezza interrotta. Va un po' qui, io non faccio da andare. Alla prossima arrivi alla riviera, a Dorra. Diciamo che pensavo peggio, dai, invece già sono andato bene. Se la facevi prima ti mettevi le mani in testa, adesso c'è tutta quella superstrada, li soffendi. E prima quando non c'era quella dovevi andarci tutto curve contro curve. A guarda che anche il rimorchio in cui c'avi, camion con camion, mi sfioravo sempre gli specchietti, quando incontravamo quando incontravamo altri tirmi, e ti dico, lo specchietto. Vabbè, grazie, cosa vuoi fare? Purtroppo non è al completo, ma già va bene, dai, non mi posso lamentare. Ah, ma con fronte a quando una bandiera spesso con un camion è un bombon, prima già era pericoloso davvero, a me davo con l'occhi, con la coda dell'occhi lo specchietto e vedi, tutti e due i caccioni si sfioravano. Grazie. Prima era prima, va a prendere solo questa trubizzo, speriamo che a fine anno sia fatto questa trubizzo, che è un bel feo. Speriamo, prima già era pericoloso davvero, è sempre incidente in cucciavo, non veda una riga, non veda l'incidente, per carità. Grazie, viene un pezzo. Che feo davvero, e curva contro curva, au dirai che si è che si due rotatori, Luca? No. Luca! Scusato! Ti ho detto, quelle due rotatorie che sono brutte, provate le hai! Sì, c'erano anche, vabbè, comunque erano all'interno, degli scavatori che stavamo mettendo dalla terra, boh. Sì, ma l'ho trovata abbastanza scorrevole, poi al ritorno ho trovato... diciamo un signore grande di età, stava andando a 20, cata giudito, non riuscivano a superarlo, perché poi dall'altra parte ogni tanto passava qualche mezzo pesante e veniva male superarlo, capito? Poi ho trovato il pezzo e avanti secco, infatti una volta poi ho sparato quello lì, me l'ho tirata la grande, dai, sono arrivato, non me ne sono neanche accorto, ecco, perché avevo anche la musica abbastanza alta e... sono andata alla grande, dai, questo vuol peggio. Sì, solo per quelle due o tre rotatori che ci sono, tutto il resto è scorrevole. Sì, ma infatti, tanto voi sicuramente sono chiudette, io devo andare a lavarmi. Sì, ok, mi pare che pure Graziano si arrendi. E infatti adesso chiudo là, che il mio babbo con l'insulina. Va bene, ce la sentiamo a domani se coincide. Ciao Tore, buona cena, buon tutto. Ciao Luca, buona lavanza e buona cena. Ok, ciao. E allora, ciao Graziano, dai, ciao Tore. A domani se Dio vuole, se ci sono, se no martedì, dai. Ciao ciao. Ok, ciao Luca, ciao Graziano, ci sentiamo alle prossime. Ciao.